La via della spiritualità. Il primo passo che conduce al perfezionamento spirituale è la certezza della verità oggettiva, razionalmente acquisita e sentimentalmente accettata, che nessuno tranne Allah ha titolo per essere padrone e signore dell'uomo in quanto creatore dell'uomo, e che Muhammad è veramente apostolo di Allah. Questa certezza sfocia necessariamente nella professione di fede che, oltre a essere una formula di rito, è anche un impegno solenne. Per la prima parte è l'impegno a prendere come proprio codice di vita solo ed esclusivamente la parola di Allah, e per quanto riguarda la seconda parte, a prendere come maestro di vita, guida spirituale e modello di comportamento il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Il secondo passo è l'obbedienza, che consiste nel trasformare in pratica di vita gli impegni assunti con la professione di fede. L'ultimo e più alto stadio è quello del perfezionamento, che si raggiunge quando l'uomo, identificata la propria volontà con la volontà di Allah, il Dio, la esercita nei limiti delle sue possibilità in accordo con la volontà divina. In questo stadio l'uomo approva quanto approvato da Allah e aborrisce quanto disapprovato da Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo. Per questo motivo egli evita ciò che Allah disapprova e si sforza di impedirne la diffusione. Non si accontenta della propria virtù, ma si sforza per stabilirla e diffonderla nel mondo. L'uomo che ha raggiunto questo stadio ha raggiunto il traguardo della vicinanza ad Allah e il vertice della spiritualità. A questo vertice della spiritualità e alla prossimità di Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, si giunge attraverso la pratica dei cinque pilastri dell'Islam: la professione di fede, il rito dell'adorazione quotidiana, il pagamento dell'imposta coranica, il digiuno del mese di Ramadan, il pellegrinaggio alla casa di Allah. E infine, dalla pratica sincera dei cinque pilastri dell'Islam, profondamente radicata nel credo, scaturisce naturalmente lo sforzo per affermare il primato della parola di Allah, rifulga lo splendore della sua luce.